Seconda puntata di Un racconto al giorno. Come cambierebbe il mondo? E come cambierebbe la mia vita? Se io scomparissi dal mondo, intendo. Il mondo non cambierebbe di una virgola e tutto andrebbe avanti allo stesso modo, giorno dopo giorno? Sì, lo so. Starai pensando che si tratta di domande assurde che sto delirando. Ma devi credermi, quello che sto per scriverti mi è successo negli ultimi 7 giorni. Davvero. 7 giorni a dir poco pazzeschi. Ah, dimenticavo, tra non molto morirò. Quindi, come e perché siamo arrivati a questo punto? È proprio quello che sto per raccontarti. Sarà una lettera molto lunga, ti avverto. Però vorrei che mi seguissi fino alla fine. Anche perché questa è la prima e l'ultima volta che ti scrivo una lettera. Sarà il mio testamento. Lunedì. Il diavolo fa la sua comparsa. I miei ultimi desideri non arrivavano nemmeno a 10. In un film ho visto tempo fa, la protagonista in punto di morte scriveva la lista delle 10 cose che avrebbe voluto fare prima di lasciare questo mondo. Che stupidaggine. Va bene, magari se non sarà una stupidaggine, ma un elenco compilato in fretta e furia non può contenere chissà quali grandi desideri. Come lo so? Ecco, la verità è che ci ho provato anch'io. Ho provato a elencare le mie 10 cose da fare prima di morire. Ed è stato, a dir poco, imbarazzante. Tutto è iniziato 7 giorni fa. Un brutto raffreddore non mi dava tregua, ma ho continuato a svolgere il mio lavoro di postino e a recapitare la corrispondenza ogni giorno, nonostante qualche linea di febbre e un dolore lancinante al lato destro della testa. Sulle prime ero riuscito ad alleviare i sintomi con farmaci da banco. Come ben sai, odio i medici. Ma dopo 2 settimane ho finalmente deciso di farmi visitare. Così ho scoperto che non era un raffreddore. Era un tumore al cervello, di 4° grado. Dopo aver esposto la sua diagnosi, il medico ha aggiunto che mi restavano, sì e no, 6 mesi di vita. Nella peggiore delle ipotesi, 1 settimana. Quindi mi ha illustrato le varie opzioni, tra cui radioterapia, farmaci anticancerosi e cure palliative. Ma c'era poco da fare. Le sue parole non volevano entrarmi in testa, rimbombavano come un'eco lontana. Da piccolo, durante le vacanze estive, andavo in piscina. Mi tuffavo in quella vasca blu e gelida con uno splash, poi blo blo blo blo, il mio corpo affondava. Mamma mi rimproverava dicendo che doveva fare riscaldamento prima di buttarmi. Sua voce sott'acqua mi arrivava smorzata, confusa, sorda. Avevo completamente dimenticato quel suono. Era rimasto nascosto per anni nei meandri della memoria ed è riaffiorato proprio in quel frangente. Poi quella visita interminabile è finita. Il dottore non ha fatto in tempo a concludere il discorso che ho agguantato la borsa del pavimento e sono uscito dallo studio con passo malfermo. Dopodiché mi sono fiondato fuori dalla clinica urlando a squarciagola, ignorando le voci del personale medico che cercava di fermarmi. Ho corso a più non posso, urtando contro i passanti, cadendo, ruzzolando e risollevandomi in piedi per riprendere a correre ancora più veloce, scapicollandomi fino a raggiungere un ponte dove le gambe hanno ceduto. E sono stato costretto a strisciare, il respiro rotto da singhiozzi. No, non è vero. Se raccontassi una cosa del genere direi una grandissima bugia. In circostanze così si riesce a mantenere una calma del tutto inaspettata. Il mio primo pensiero è andato alla tessera del centro benessere vicino a casa. Ancora un timbro e avrei ottenuto un massaggio gratuito, seguito a ruoto dal disappunto per aver appena comprato detersivi e carta igienica per un esercito. Ecco cosa mi è balenato per la testa. Purissima futilità. 10 minuti dopo sono sopraggiunte la malinconia e la tristezza. In fondo avevo solo 30 anni. Ho vissuto più a lungo di Jimi Hendrix e Jean-Michel Basquiat. È vero, ma sentivo di avere ancora parecchie cose da fare. Cose che nessun altro a questo mondo avrebbe potuto realizzare all'infuori di me. Doveva per forza esserci qualcosa che potevo fare solo io, mi sono detto. Il fatto che non mi venisse in mente nulla è tutto un altro discorso. Lo sguardo assente, ho trascinato le gambe fino alla stazione, dove 2 giovani stavano cantando con una chitarra acustica. La vita finirà e fino all'ultimo farai tutto quello che vorrai, giorno per giorno. Razza di idioti, dico io, ma un po' di fantasia. Bravi, bravi, cantate per il resto della vita davanti alla stazione. Avevo i nervi a fior di pelle, stavo impazzendo. Non avevo la minima idea di come gestire quella situazione 100 volte più grande di me. Al ritorno ho preferito prendermela comoda e camminare con calma. Ma quando, dopo aver salito le scale, facendo un gran fracasso, ho aperto la porta di casa e ho visto la stanzetta in cui abitavo, ho accusato il duro colpo della disperazione. Davanti a me era tutto buio, letteralmente. E lì sono crollato. Quando mi sono svegliato ero nell'ingresso. Chissà quante ore ero rimasto sdraiato per terra. Davanti ai miei occhi una palla di peli bianchi, neri e grigi si lamentava con dei miau. Metto bene a fuoco. È il gatto, il mio amato gatto, il batuffolo di peli che da ormai 4 anni vive insieme a me. Si era avvicinato e seguitava a miagolare. Doveva essere preoccupato. Comunque fosse, non ero ancora morto. Mi sono rimesso in piedi. Ma tanto per cambiare, avevo mal di testa e mi sentivo la febbre. La malattia era più reale che mai. All'improvviso ho sentito una voce melodiosa. «Piacere di conoscerti!» Mi sono voltato di colpo e mi sono visto in piedi in mezzo alla stanza. Ovviamente non potevo essere io, perché io ero fermo al mio posto. Qualcuno aveva preso le mie sembianze. In quel preciso momento mi sono ricordato del termine «doppelganger». Tempo addietro avevo letto in un libro che si riferiva al proprio doppio, l'altro sé che fa la sua comparsa in punto di morte. Le possibilità quindi erano 2. O ero andato completamente fuori di testa, o era giunta la mia ora. Sono stato a un passo dal perdere i sensi, ma mi sono fatto forza e ho deciso di prendere di petto quello che mi trovavo davanti. Con chi ho il piacere di parlare? Secondo te? Vediamo, con l'angelo della morte. Fuochino. Io sono il diavolo. Il diavolo? Sì, in persona. Ecco come ha fatto la sua comparsa il diavolo. Hai mai visto il diavolo? Beh, io sì. A differenza di quel che la gente immagina comunemente, Non ha il volto scuro né la coda appuntita e non è assolutamente armato di forcone. Assomiglia a noi. Non era una situazione facile da accettare, capisci bene, ma quello che mi trovavo davanti era un tipo così allegro e sorridente che mi ha ispirato simpatia. Decisi di ascoltare quello che aveva da dire, senza farmi troppi problemi. Dopo averlo osservato con maggiore attenzione, ho notato che aveva sì i miei stessi lineamenti e la mia stessa corporatura, ma anche dei gusti nel vestire molto diversi dai miei. Fondamentalmente io vesto solo di bianco e nero, tipo che sui jeans neri sono capace solo di mettere una camicia bianca e un cardigan nero. Sono un tipo monotono, lo so. Mamma si arrabbiava sostenendo che mi vestivo sempre uguale, ma era più forte di me. Compravo ogni volta le stesse cose. Al contrario, il diavolo indossava abiti a dir poco vistosi. Camicia gialla in perfetto stile hawaiano, con disegni di palme e macchine americane, bermuda e tanto di occhiali da sole sulla testa, neanche fossimo in piena estate. Fuori si gelava. Proprio mentre stavo per esplodere, il diavolo ha parlato. «Allora, che intenzioni hai?» «In che senso?» «Ti rimane poco tempo, giusto?» «Già, così pare.» «Quindi, che vuoi fare?» «Non lo so, per il momento provo a pensare alle 10 cose che vorrei fare prima di lasciare questo mondo.» «Cos'è? Vuoi fare come in quel vecchio film?» «Pensavo, vuoi veramente lanciarti in un'impresa tanto stupida?» Dici di no, eh? Vedi tu, in realtà lo fanno in molti. Alcuni sono assolutamente convinti che prima di morire devono fare tutto. Hai presente? Ci passano tutti almeno una volta, anche perché non ce n'è una seconda. Il diavolo si sbellicava dalle risate al punto da tenersi la pancia con le mani. Non far ridere. Hai ragione, scusa, dai, le cose vanno provate, mettiti subito a stirare la tua lista. Così ho afferrato un foglio bianco e ho cominciato a compilare il mio elenco. Stavo per morire e perdevo tempo in quel modo. Che cosa stavo combinando? Mi sentivo triste, sconsolato e anche un po' stupido. Confusione totale. La penna andava avanti per conto suo. Alla fine ce l'ho fatta, evitando gli sguardi curiosi del diavolo, che cercava di sbirciare allontanando il mio amato gatto, che come tutti i gatti dell'universo mondo, quando uno deve lavorare, cerca di accucciarsi proprio sul foglio che stavo usando. Primo, voglio lanciarmi col paracadute da un jet. Secondo, voglio scalare l'Everest. Terzo, voglio sfrecciare su un'autobahn in Ferrari. Quarto, voglio mangiare un intero banchetto come quelli degli imperatori cinesi. 5. Voglio salire sul Gundam. 6. Voglio gridare amore dal centro del mondo. 7. Voglio un appuntamento con la Nausicaa di Miyazaki. 8. Voglio scontrarmi con una bellissima ragazza che sbuca da dietro l'angolo con una tazza di caffè in mano e ci innamoriamo perdutamente. 9. Voglio imbattermi nella ragazza di cui anni fa mi innamorai, non corrisposto, mentre entrambi cerchiamo riparo dalla forte pioggia. 10. Voglio innamorarmi. Ma che razza di roba è? Vai ancora alle medie, fammi capire. Sono in imbarazzo per te, scusa. Patetico. E sì che mi ero anche sforzato, ma non avevo prodotto nulla di meglio. Pure il mio amato gatto sembrava vagamente disgustato. Ero sull'orlo della disperazione. Poi però il diavolo è intervenuto e mi ha dato una pacca sulla spalla. Forza, cominciamo col paracadutismo. Veloce, preleva tutti i tuoi risparmi che si va all'aeroporto. 2 ore dopo ero su un jet a 3.000 metri d'altezza. Senza perdere l'allegria che la contraddistingue, il diavolo mi dà un colpetto dietro la schiena. Perfetto, e ora, lanciati, vai! E mi sono lanciato. Proprio così. Era il sogno di una vita. Il cielo azzurro che si dispiega davanti ai miei occhi, le nuvole solenni, l'orizzonte infinito. Ero certo che nel momento stesso in cui avrei visto la terra dal cielo, la mia scala di valori si sarebbe ribaltata, che avrei scordato le cose più insignificanti e avrei assaporato tutti i piaceri della vita. L'aveva detto, non ricordo chi, invece, non è affatto andata a quel modo. Ne avevo avuto abbastanza prima ancora di gettarmi nel vuoto. Tanto per cominciare, lassù faceva un freddo cane. Poi l'altitudine era troppo elevata. Insomma, ero terrorizzato. Come si fa a gettarsi nel vuoto per passione? La gente è pazza. E io? Davvero volevo farlo? Questi altri pensieri nella testa continuavo a volare verso terra, finché ancora una volta ho rivisto tutto buio. Abbiamo letto l'incipit tratto da Se i gatti scomparissero dal mondo di Kawamura Genki.